Allora, 14:37 e torniamo in diretta con Radio Tagadà, quest'oggi in trasferta e siamo direttamente negli studi di Radio Onda d'Urto a Brescia. Abbiamo appena ascoltato Mr. Jackson degli Outkast, gruppo musicale hip hop statunitense di Atlanta, per la precisione, formato dai rapper e produttori Andre Benjamin e Antoine Patton, in arte Big Boy. Il brano, uscito nel 2000, ci riporta indietro negli anni della nostra adolescenza. Difatti girava a palla su MTV proprio in quegli anni. Confermi Dynamite? Dynamite ci conferma che non vuole parlare al microfono mai. Come detto prima, ora invece parliamo di una questione abbastanza delicata e che va avanti ormai da 2 mesi. Ne parliamo con una compagna. Ciao, ci senti? Ciao, sì, vi sento. Ciao, ciao, grazie e benvenuta a Radio Tagadà. Niente, come dicevamo prima, volevamo parlare ed aggiornare in quest'ultima puntata del 2022 di Radio Tagadà sulla situazione di Alfredo Cospito. Ne abbiamo parlato in radio in maniera continuativa. Per farlo, magari partiamo da una situazione pratica che c'è stata ed un'iniziativa. Il 12 dicembre a Milano, ricordiamo che il 12 dicembre appunto c'è stata la commemorazione della strage di Piazza Fontana, ma è successo anche qualcos'altro, anche per lo sciopero della fame di Alfredo, riguardo la lotta al 41 bis contro l'ergastolo ostativo. Quindi, se vuoi darci un resoconto di quello che è successo il 12 a Milano. Sì, certo. Allora, il 12 dicembre, appunto, già come hai detto tu, c'è stata la commemorazione del 53° anniversario della strage di Piazza Fontana e prima un gruppo di compagni, prima di ricongiungersi e andare al concentramento per l'annuale corteo cittadino, ha deciso di presentarsi in piazza e interrompere nel momento proprio in cui sala. Il sindaco di Milano cominciava il suo discorso, in cui, come ogni anno, diciamo, fa una sciacquata di coscienza davanti ai parenti delle vittime di Piazza Fontana. Diciamo una sciacquata di coscienza perché ovviamente sappiamo che insomma, le stragi per mano dello Stato sono all'ordine del giorno. Se consideriamo anche i morti sul lavoro, non so, i ragazzi morti in alternanza scuola-lavoro, le stragi che avvengono nelle carceri, io proprio di questa settimana, l'81° suicidio in carcere, se non poi consideriamo anche tutti i tentativi di suicidio che avvengono, ma anche appunto la compartecipazione dello Stato nella produzione e vendita di armi tramite le sue SPA come Leonardo, Fincantieri che quest'anno vedono i propri introiti andare alle stelle e appunto quindi un gruppo di compagni è andato e ha deciso di interrompere questa messa in scena che accade ogni anno, in quanto appunto sappiamo tutti che in questo momento Alfredo Cospito è in sciopero della fame e appunto oggi, quindi come allora, è evidente come lo Stato appunto cerchi di costruire la propria sicurezza annientando i suoi nemici e in generale il conflitto sociale. In queste settimane poi sta mettendo in mostra proprio anche il suo cinismo in quanto di fronte a qualcuno che decide di mettere a rischio la propria vita per mettere in luce le condizioni di tortura in cui lui, come altre 760 persone in Italia, vivono, da ormai 15 giorni stiamo aspettando, anzi di più oggi, si sta aspettando una risposta dal Tribunale di Sorveglianza di Roma che appunto il 1° dicembre c'è stata l'udienza di ricorso che è stata presentata dagli avvocati per la misura che gli è stata imposta di regime di 41 bis. Per quanto riguarda il suo sciopero, oggi siamo al 58° giorno e lunedì appunto si raggiungeranno i 60 giorni, quindi 2 mesi. Riguardo alle sue condizioni non si possono avere troppe notizie, quindi è molto difficile dare notizie certe su come sta. Diciamo che più o meno si sa che sta stranamente, rispetto alla, nonostante la situazione in cui si trova, dovrebbe stare abbastanza bene, i suoi valori non sono troppo sballati, comunque appunto ha dei momenti di debolezza in cui accetta di prendere acqua e zucchero e sta prendendo anche degli integratori, dopodiché appunto la situazione cambia di giorno in giorno, non potendo avere notizie da lui molto velocemente, non si sa oggi come sta. Sì, ricordiamo poi anche che insieme ad Alfredo, altri compagni, tra compagni e compagni, ha iniziato lo sciopero della fame, Juan che l'ha terminato, Ivan Alocco, anche un compagno recluso in Francia, che l'ha terminato un paio di settimane fa, anche Anna. Il 14 che... anche Anna sì, ha interrotto lo sciopero della fame dopo una settimana, tra l'altro che rifiutava il ricovero perché le sue condizioni erano molto critiche. Sì, poi mi aggiungo magari sull'udienza del 1° dicembre, insomma per la situazione carcerativa, diciamo, se così si può dire, insomma la situazione di 41 bis di Alfredo, praticamente c'è stato, ci sono i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Roma che sono in sciopero da più di 15 giorni e quindi non hanno dato una risposta a riguardo, perché in questo momento sono in sciopero e sono pagati dallo Stato per non prendere decisioni sulle vite altrui. E poi sul processo di appello di Skipta Manent, che c'è stata l'udienza il 5 dicembre, la stessa Corte d'Appello di Torino non si è espressa riguardo la richiesta di ergastolo come richiedeva la Cassazione, nel senso che la Cassazione ha rimandato il processo in appello chiedendo di rimodulare la pena, cercando insomma sì, di perché spingere... sono state sollevate delle questioni di legittimità costituzionale riguardo al fatto che appunto non possano essere concesse delle attenuanti. È stato accolto, diciamo, il fatto che è rimandato alla Corte Costituzionale di decidere riguardo alla tenuità del fatto, visto che appunto non ci sono stati né morti né feriti per la strage di cui vengono accusati. Sì, e tendenzialmente la Corte Costituzionale dovrebbe esprimersi il 19 dicembre, ma questa è una data assolutamente fittizia, non si saprà se questo ente, organo giurisdizionale, insomma, si esprimerà. E nel frattempo però Alfredo continua lo sciopero della fame, e sappiamo bene che insomma i giorni avanzano e le condizioni diventano sempre più critiche. Bene, guarda, esatto. Noi ti ringraziamo e niente, speriamo di aggiornarci anno nuovo, perché in diretta ora ci torneremo verso il 20 di gennaio, però speriamo di aggiornarci l'anno nel 2023 con notizie propositive riguardo la situazione di Alfredo. Grazie e va bene. A presto. Grazie a voi. Ciao. Ciao, buona trasmissione. Ciao, ciao, ciao. Rivolte permanente, negazione inesistente, conflitto permanente, fate della concorrenza, triste razionaria, razionaria! Giorno per giorno per giorno, ogni giorno, giorno per giorno per giorno, ogni giorno, giorno per giorno per giorno, ogni giorno, giorno per giorno per giorno! Condanne, ma quello che conta è non dare la resa, guarda dietro le sbarre, in un tunnel rinchiuso, la morte prima del disonore. Giorno per giorno per giorno, ogni giorno, giorno per giorno per giorno, ogni giorno, giorno per giorno per giorno, ogni giorno, giorno per giorno per giorno. Rivolte, rivolte. Una manca di stronzi,